9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, in questo 3 giugno noi ci poniamo un problema che riguarda la Sicilia, ma non riguarda solo la Sicilia, perché è un principio di ordine generale. La questione è delicata e davvero vi chiedo, a voi che siete a casa e ci darete la vostra opinione chiamando all'800 24 00 24, oggi di evitare lo stereotipo nord contro sud, sud contro nord, perché molti ascoltatori ritengono che stiamo un po' esagerando. Allora, la questione è questa, ha a che vedere con i precari, i lavoratori precari del pubblico impiego, in particolare con quasi 30.000, sommando i precari degli LSU, i lavori socialmente utili, che da anni e anni gravano e danno il loro contributo, a seconda che consideriate l'onere e a seconda che considerate il loro contributo al lavoro e all'efficienza degli enti locali in Sicilia. Comuni ne hanno oltre 22.500, i comuni siciliani, la regione 4.500. Negli anni alle nostre spalle, dal 2005-2006 finanziario in avanti, si era inteso per una norma di convergenza regionale e nazionale che le retribuzioni di questi precari, che da molti anni sono in queste condizioni, fossero dei veri e propri trasferimenti sociali e quindi non fossero compresi nel capitolo spesa per i dipendenti ai fini del patto di stabilità. Alla fine, nel 2009, questa specie di norma di convergenza non vale più, la regione procede per la sua strada e quindi decide, si batte e decide poi unilateralmente la trasformazione dei rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, cioè la normalizzazione dei precari. Il commissario di governo a questo punto non è d'accordo e impugna diversi articoli, 27 articoli della finanziaria regionale, impugnandoli alla Corte Costituzionale. Tra questi articoli c'è anche la doppia stabilizzazione dei precari regionali, che amplierebbero la pianta organica di Palazzo dei Normanni, della regione, e di quelli degli enti locali, che richiederebbe a questo punto anche una revisione ex post del patto di stabilità. I sindaci, oltre 300 sindaci siciliani, proprio stamane sono in piazza insieme all'ANCI, all'UPI, al governo regionale, per ottenere la deroga al patto di stabilità del governo nazionale. La domanda che io faccio a tutti voi in ascolto è: quale esigenza deve prevalere? Deve prevalere quella delle famiglie e dei lavoratori precari del pubblico impiego, oppure devono prevalere le esigenze generali che stanno spingendo il governo alla manovra di cui tanto si parla e al contenimento dei meccanismi tendenziali di incremento della spesa pubblica, di cui ovviamente l'ampliamento delle piante organiche dei dipendenti è uno degli aspetti fondamentali? Io ricordo che i pubblici dipendenti significano 11 punti di PIL sul 53% di PIL che se ne va in spesa pubblica. Naturalmente un conto è dire esigenza generale di contenimento, altro conto è dire voi siete precari da anni e adesso non vi assumiamo. Però di queste amare scelte è poi fatta la vita della politica e la richiesta che la politica rivolge a noi tutti di essere corresponsabili, di tirare tutti quanti la cinghia, di mettere mano ad aggravi e di diminuire le logiche tendenziali di incremento retributivo per tutti i dipendenti pubblici, perché questa è una delle norme che c'è. Allora io vi chiedo di dirci come la pensate. Nel frattempo il presidente della regione Sicilia, Lombardo, ci spiega in questo modo che cosa sta avvenendo. Abbiamo avviato un processo che, nonostante anche qua avesse tanta gente che remava contro, ci vedrà, come dire, assicurare a questi precari, cosiddetti contrattisti della regione, la stabilità. Poi ci sono i precari degli enti locali che, a proposito di patto di stabilità, sono giustamente in grande fibrillazione. Sono gli uomini e le donne su cui si regge il lavoro degli enti locali. E qua è la nostra sorte, è la nostra vita. Quindi Tremonti, non Tremonti, le nostre leggi, il commissario dello Stato ha impugnato una norma della nostra finanziaria che è la stessa che nel 2006 invece non fu impugnata. E la rifaremo in 3 giorni, torneremo a Roma, andremo a dormire sotto i ministeri, purtroppo dipendiamo da loro, perché a questi 22.000 nostri fratelli siciliani, così come ad altri, che vanno sottratti allo stato di precarietà, non si deve assumere più nessuno, bisogna aspettare che questa enorme macchina fatta, come dire, ingrandita non sempre per nobili fini, la macchina, ma nobili sono gli interessi delle persone e le aspettative delle persone, non cresca ma diminuisca grazie ai pensionamenti fisiologici. Intanto quelli che ci sono sicuramente, che hanno costruito sul loro lavoro e sul loro modesto stipendio la loro vita, la loro casa, i loro elettrodomestici, la prospettiva dei loro figli abbia la sicurezza che meriti. Ecco, avete sentito le parole esplicite del presidente Lombardo, che dice in realtà le promesse e poi i rapporti di lavoro precario in base a cui la politica espande le piante organiche non sono nobili, lo ammette, lo dichiara, ma però sono nobili le aspirazioni ovviamente dei precari, delle loro famiglie. E in questa sincera manifestazione di ignobiltà della politica, perché prendo alla lettera le parole di Lombardo, a me un po' ribolle il sangue, perché è ovvio che ogni politico può dire che la colpa è del predecessore, ma se non c'è nella catena un politico che dice adesso basta, si va semplicemente di precarizzazione in precarizzazione normalizzata in avanti. Anche se io però mi pongo il problema di che cosa vogliono dire decine e decine di migliaia di famiglie in un contesto in cui il reddito disponibile è così basso come quello della situazione rappresentataci dalle medie del reddito pro capite in Sicilia. Una correzione: ho detto che erano in strada a manifestare oggi i sindaci Lupi, invece la manifestazione è domani, oggi c'è l'ultimo incontro per verificare se esiste una possibilità di intendersi con il governo. Ecco, ora mentre vi prego davvero di telefonare, iniziamo con gli ospiti ai quali chiediamo di spiegarci di che cosa è figlia questa situazione e dove può andare a parare. Abbiamo innanzitutto Michele Palazzotto, che è segretario della CGIL, funzione pubblica della Sicilia. Buongiorno Palazzotto. Buongiorno. Ecco, per capirci, da quanti anni questa situazione del precariato degli LSU siciliani va avanti? Cioè in media i 22.500 dei comuni e i 4.500 della regione, da quanto stanno in queste condizioni? Allora, in Sicilia 20 anni fa si aprì questa strategia, che fu una propria strategia dei partiti che allora governavano la Sicilia, del precariato. 60.000 precari allora furono intromessi nella pubblica amministrazione siciliana, basti pensare soltanto 10.000 nel comune di Palermo, che già sono tutti stabilizzati in dotazione organica. È chiaro che c'è stato un surplus di personale che lavorava negli enti locali della regione, ma bisogna fare un'analisi, e questo surplus, siccome i sindaci non lo pagavano questo personale e quindi avevano possibilità di risparmiare perché non facevano concorsi, non ampliavano le dotazioni organiche che era necessario ampliare per dare i servizi pubblici, quindi hanno usufruito tutti di questo meccanismo dei lavori di pubblica utilità, inserendo stabilmente nell'organico questi dipendenti che pure dovevano fare soltanto lavori socialmente utili. Ora, a distanza di 21 anni ci troviamo con il residuo a stabilizzare 22.500 negli enti locali e quasi 5.000 nella regione siciliana, che da anni sono inseriti stabilmente nei processi organizzativi degli enti. Un taglio a questi dipendenti, così come prevede la nuova legge, il nuovo decreto anticrisi, perché dal prossimo anno possono essere rinnovati soltanto i contratti a tempo determinato al 50% della spesa del 2009, significherebbe anche ancora una volta in Sicilia una macelleria sociale, perché molti servizi pubblici che assicurano questi dipendenti non potrebbero essere svolti. Ma andiamo alle cose più tecniche. Noi domani facciamo una manifestazione per chiedere al governo e alla regione, che ancora non ha chiuso il patto fra lo Stato e la Regione, voi sapete che le Regioni a statuto autonomo, certo, il 31 marzo chiudono questo patto, di farsi portavoce degli interessi dei lavoratori precari siciliani, che non soltanto con la finanziaria nazionale che pone il patto di stabilità, ma anche con il nuovo pacchetto anticrisi, pone seri limiti non soltanto alla stabilizzazione dei precari, ma a continuare per il 50% a continuare questo rapporto con la pubblica amministrazione. Ecco perché noi domani faremo questa manifestazione, prendiamo con atto le dichiarazioni di Lombardo che è disposto a dormire sotto i ministeri. Così ha dichiarato, sì. Io aspetti, speriamo che lo faccia. No, no, però va bene, ma adesso questo vediamo. Io la prego di rimanere con noi per aiutarci a capire un po' di cose. Per esempio, domanda concreta che fa un ascoltatore. Il meccanismo previsto dal decreto è tale per cui si possono regolarizzare, lei ha detto, e quindi dare rapporti a tempo determinato, da tempo determinato passare a tempo indeterminato, solo il 50% dei rapporti in essere nel 2009, corretto? Gli attuali lavoratori a tempo determinato, che sono questi precari, sì, contrattisti, il prossimo anno il 50% di questi non ci sarà più. Non ci sarà più, va a casa il 50%. Quindi perché non la stabilizzazione, dice che la spesa del personale a tempo determinato deve essere il 50% rispetto alla spesa del 2009. Ho capito. Quindi non soltanto la possibilità di essere stabilizzati viene meno, ma viene meno la possibilità di avere questo contratto. Esatto. Parliamo di persone che guadagnano 700-800 euro al mese, perché lavorano molti, 18-20, i più fortunati a 24 ore, quindi parliamo ancora tuttora di un assegno sociale di 700-800 euro al mese che vengono da questi lavoratori che fanno l'attività lavorativa. Perfetto, allora iniziamo a sentire alcuni dei sindaci che hanno tutti, chi più chi meno, li sentiremo, dei contrattisti, del personale a tempo determinato da stabilizzare. Iniziamo con Salvatore Burrafato, che è sindaco di Termini Imerese. Buongiorno signor sindaco. Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori. Allora, lei quanti ne ha in dotazione? Cosa fanno e cosa pensa in merito? Dico, io mi sento quasi un'isola felice in questa terra di Sicilia, nel senso che non abbiamo soltanto 82, noi abbiamo li abbiamo inseriti già da tempo, sono pienamente inseriti nell'attività amministrativa, addirittura alcuni sono responsabili di procedimento, svolgono funzioni vitali per la vita dell'ente e soprattutto noi abbiamo tentato anche con le poche risorse che abbiamo di iniziare noi il percorso di stabilizzazione, perché loro avevano un rapporto di lavoro a 18 ore, noi quest'anno abbiamo esteso alla metà di questi contrattisti ad una quarantina altre 3 ore settimanali per tentare di avvicinarci alla stabilizzazione. Lo abbiamo fatto con risorse proprie, lo abbiamo fatto proprio con la consapevolezza che questo processo di integrazione con il resto del personale che si è avviato 22 anni fa oramai deve essere completato con un atto formale importante. È chiaro che oggi la situazione finanziaria del paese è quella che è e sembra paradossale in questo momento chiudere la partita del precariato nello stesso momento in cui il paese viene chiamato ad un'ulteriore stretta finanziaria, però come dire i 22 anni non possono essere spesi e non possono essere che valorizzati con un atto importante, quindi per quello che ci riguarda, anche se abbiamo numeri non significativi che non ci fanno preoccupare, soprattutto noi non abbiamo problemi con il patto della stabilità, però io domani sarò accanto ai lavoratori e penso che il governo della Regione Siciliana e il governatore Lombardo devono fare ciò che hanno annunziato, cioè tentare di mettere in piedi tutto il pressing politico che si può fare ed istituzionale per tentare di chiudere questa partita. Comunque il suo comune, il Termini Imerese, la provincia di Palermo, è in regola col patto di stabilità? Il mio comune sì, noi non siamo né strutturalmente deficitari né col patto di stabilità, siamo tranquilli, per cui non abbiamo i conti in ordine, stiamo facendo un lavoro di grande equilibrio finanziario, cercando di non mettere in crisi le sparute risorse che abbiamo, tentando di utilizzarle al meglio. Come le sa, Termini vive la situazione Fiat, quindi non vorremmo oltre a quello ritrovarci anche a dover fare i conti con i nostri precari, però siamo qui su un altro cammino che è segnato dalla serenità e soprattutto dalla rigidità per far sì che questo processo di stabilizzazione si completi davvero. Io ringrazio il sindaco di Termini Imerese, passiamo a Domenico Russello. Domenico Russello è il sindaco di Favara, in provincia di Agrigento. Qui mi pare di capire che invece il numero di contrattisti da stabilizzare, di precari, sia più elevato. Buongiorno signor sindaco, come vi comporterete? Voi siete in regola col patto di stabilità? Noi abbiamo certificato il patto di stabilità per il 2009, sicuramente fino a questo momento siamo in regola, ma il problema ovviamente è aperto perché gli indirizzi che vengono dati per il prossimo anno ovviamente sono di natura differente. Abbiamo sentito che se il governo nazionale non autorizza la deroga, il problema per il prossimo anno sicuramente potrebbe presentarsi, anche perché il nostro comune ha un numero abbastanza elevato di precari in generale. Noi siamo attorno ai 350 unità. 350, insomma, iniziano a essere un certo numero. Sono tanti, perché nel corso degli anni ovviamente questo personale è stato adibito a tantissime funzioni all'interno del nostro comune, quindi oggi sostanzialmente non c'è dipartimento all'interno del quale non ci siano lavoratori precari che contribuiscono al regolare funzionamento della nostra pubblica amministrazione. Quindi non poterne più usufruire per il futuro sarebbe un grave rischio per il nostro ente, metterebbe a serio rischio il funzionamento dell'ente. Senta, signor Sindaco, alcuni dei nostri ascoltatori ci iniziano a mandare un po' di sms che dicono: ma visto che loro giustificano il fatto che solo in Sicilia c'è un numero così elevato, 30.000 se somma una regione comune, di precari da stabilizzare, perché non pensare a riserve di finanza locale propria con cui procedere a questa operazione, visto che poi in realtà il problema è stato creato dai politici siciliani e non da quelli nazionali? Domanda alla quale prego il sindaco e tutti coloro a cui rivolgerò di rispondere, tenendo presente che insomma un po' di risentimento si avverte nella cittadinanza che è chiamata poi ai sacrifici. Allora, magari in realtà è già così, cioè è ovvio che i comuni problema, che sono... La domanda è perfettamente legittima, perché il problema ha una sua specifica connotazione regionalistica. Non c'è un'altra regione in Italia che ha un problema così aperto e ampio come lo registra la Regione Sicilia. Però quello che chiede il governo regionale al governo nazionale è una deroga al patto. In realtà le risorse finanziarie non le mette lo Stato, ma le mettono la Regione e i Comuni, perché ad oggi il peso e il carico finanziario per il pagamento di questi contrattisti è per l'80% a carico della Regione e il 20% a carico dei Comuni. Quindi in realtà non è lo Stato che paga questi contrattisti, li paga la Regione Sicilia e i singoli comuni della Regione. Tuttavia credo che sia utile ed opportuno non soltanto richiedere il rinnovo di questi contratti che sono essenziali per il funzionamento della pubblica amministrazione negli enti locali della Regione Siciliana, ma è utile e opportuno al tempo stesso approvare una legge, credo che sia in discussione al Parlamento regionale, per la fuoriuscita dal precariato e la definitiva stabilizzazione di questo personale. Se non si fa al contempo questo, credo che il mero rinnovo di questi contratti non risolve il problema, ma si rimette semplicemente a rinviarlo. Però la Regione ha in discussione una legge in questa direzione. Oggi io sono in viaggio, sto andando a Palermo perché siamo stati convocati dall'assessore Leanza e dal governo regionale alla presenza del presidente Lombardo, appunto per discutere di questi problemi. La manifestazione di domani sarà una manifestazione di piazza, oggi c'è invece un incontro istituzionale tra il governo, i presidenti delle province, dei comuni siciliani, proprio per accelerare innanzitutto e chiedere che venga accelerato l'iter per l'approvazione della legge sulla stabilizzazione dei precari. Bisogna approvare un piano di ottimizzazione del servizio per la fuoriuscita dal mondo del precariato. È inimmaginabile che si possa continuare così. E grazie anche a Domenico Rossello, sindaco di Favara. Naturalmente poi quando dalla stabilizzazione si passerà integralmente, o si passasse integralmente alla trasformazione in contratti a tempo indeterminato, gli oneri, come ovvio, crescerebbero, e a quel punto si porrebbe poi il problema se davvero poi la finanza pubblica regionale e comunale è in grado di far fronte a tutto. Comunque iniziamo a sentire alcune delle telefonate. Lidia, chi ci chiama da Palermo? Prego. Buongiorno. Lidia, buongiorno. Io sono molto adirata, non sono seccati, sono molto adirata, perché non è che paga la Regione, paghiamo noi cittadini. Avremmo tutto il diritto di sapere quali compiti sono chiamati a svolgere queste migliaia di precari indispensabili. Il Giornale di Sicilia lo ha chiesto centinaia di volte, perché noi abbiamo una città che, scusi la parola, fa schifo. I cestini non sono svuotati, a prescindere dalla spazzatura che stiamo superando Napoli. Le strade, a mio ricordo, io sono anzianotta, non sono mai state lavate, mai. Sa qual è la giustificazione? Signora, ci faccia sperare, qualche volta saranno state lavate? No. Oscar, no. Allora, quello che è giusto, se la risposta è no. Forse la via Libertà, la via dove passano, forse quella sì, la via Roma. Io abito nella zona cosiddetta residenziale. cosiddetta residenziale. È vero che i cittadini non voglio dire non siamo civili, perché io mi ci sento, non sono civili, però che cosa fanno questi poveri precari? Per carità, con tutto il rispetto, questi precari fanno altri lavori e poi nel tempo libero vanno a firmare. Dicevo alla Sabrina, non so chi mi ha risposto al telefono, che tempo fa sono stati uccisi due uomini, mi dispiace, che raccoglievano nespole nei loro poderi. Sì. E siccome erano stati uccisi, il morto era lì. Chi erano? Erano due precari o LSU, lavoratori socialmente inutili, che avevano firmato e se ne erano andati. I sorveglianti che fanno? Niente, anche loro. Ora Lidia da Palermo, come si vede, ci dà uno spaccato dei cittadini di là che dicono insomma va bene i diritti, va bene anni e anni di precariato, però fateci capire. E mi sembra una domanda sulla quale concordare, quindi dopo la pubblicità vediamo di approfondire un pochino. Come vedete però i toni che stiamo usando sono quelli di una ricerca paziente di comprensione, perché tutto vorrei tranne che 30.000 famiglie in Sicilia pensassero che noi vogliamo fare questo termine che inizia un pochino a irritare, perché lo si usa a proposito di tutto, la macelleria sociale. Ecco, io il termine macelleria già non mi piace. Poi pensare che poi la voglio fare ai danni di persone che da anni in realtà non è che campano grazie a questo, campano anche grazie a questo, si devono arrabattare, perché la politica, mi dispiace ribadirlo, li ha presi per i fondelli, e questo è sempre il punto. Però la politica che poi ci dice che deve rimediare ad errori che però sono della politica, e la politica non può distinguere responsabilità pro tempore. La politica deve rispondere di fronte al contribuente come un blocco unitario, e se ha sbagliato deve pagare lei, non deve chiedere al contribuente di pagare per essa, anche laddove vi siano diritti fondamentali come quello a un'esistenza dignitosa nel lavoro, che però vanno contemperati, me ne rendo conto. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando di questo problema della stabilizzazione richiesta dagli enti locali, dai comuni e dalla regione siciliana per i quasi 30.000 precari LSU, lavori socialmente utili, che da anni vivono in questa condizione. Ed è una norma alla quale il patto di stabilità è l'intervento di criteri più stringenti da parte del governo nazionale si oppone, quindi domani gli enti locali siciliani vanno in piazza per chiedere insieme al governo la modifica del patto di stabilità. Molte reazioni da parte degli ascoltatori e anche da molti siciliani. Per esempio un sms viene da un giovane ascoltatore che ci dice: sì, d'accordo, io sono in prima fila a sostenere i diritti delle famiglie degli LSU, però io sono laureato e ho un master e qua non posso concorrere ai concorsi della pubblica amministrazione, perché per via dell'assorbimento in pianta organica delle migliaia e migliaia di precari qua di concorsi non se ne fanno. Esiste anche questa poi di condizione, naturalmente, che spinge poi il meglio dei cervelli siciliani ad andarsene altrove, per esempio per questo fattore. Allora, abbiamo collegato con noi adesso Lino Leanza, che è assessore alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro della regione Sicilia. Grazie assessore Leanza, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo un po' focalizzato la questione. Ragionevolmente lei pensa che quale sia lo sbocco, il passaggio che sarà concretamente possibile concertare con il governo nazionale? Guardi, intanto lei ha correttamente posto il problema, perché abbiamo due grosse criticità. Da un lato precari che da 22 anni, non da due giorni, ma dal 1988, grazie anche ad una legge nazionale, sono precari nella pubblica amministrazione. Ed è uno di quei pochi casi in cui i precari sono stati in qualche modo utilizzati in maniera utile, molto forte, molto seria, efficiente ed efficace dalla pubblica amministrazione, e sono precari che praticamente non tutti prendono neanche le 36 ore, quindi sono 20 ore, 22 ore, hanno famiglia, sono cresciuti, ormai sono tutti quarantenni, e anche persone di altissimo livello, laureati, diplomati la maggior parte. C'è una norma ovviamente sul patto di stabilità che noi loro sono entrati in deroga, non sono stati mai conteggiati nel patto di stabilità. Nell'ultima finanziaria che abbiamo approvato la solita norma che mettevamo ogni anno è stata invece impugnata dal commissario dello Stato, e oggi ci troviamo in una grandissima difficoltà, perché c'è il rischio che oltre 25.000 persone in qualche modo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, qualcuno nei prossimi anni non possa più essere stabilizzato, comunque poi neanche contrattualizzato nella pubblica, da parte della pubblica amministrazione. Assessore, ma la regione avrebbe nella propria disponibilità di bilancio e nei flussi pluriennali le risorse per fare fronte alla stabilizzazione prima e poi alla trasformazione del contratto di questi 4.000, quasi 5.000 che sono la parte di LSU in carico alla regione? Sì, ma non solo la regione ma anche i comuni, bisogna chiarire un fatto, lo Stato non ha mai dato una lira per stabilizzare un solo precario in Sicilia, cosa che ha fatto in tanti altri posti, quindi sia in quelli degli enti locali, che ovviamente sono a carico degli enti locali e della regione, sia in quelli della regione si fa fronte con fondi regionali e quindi che ogni anno noi abbiamo messo a disposizione e quindi di fatto è soltanto una deroga non finanziaria, ma certamente una deroga in cui in qualche modo che possa consentire ai comuni di poter avviare il processo di stabilizzazione e dare finalmente un lavoro dignitoso a tutte queste persone che sono, ribadisco, utili, fondamentali, perché come correttamente diceva lei, da oltre 20 anni in Sicilia non si fa un concorso in una pubblica amministrazione, da oltre 20 anni. E nel frattempo, in questi 20 anni, se ne sono andati in pensione migliaia e migliaia e migliaia di persone. Ora io la prego di rimanere con noi qualche minuto e sentire qualche telefonata ai nostri ascoltatori per poi consentirci di rispondere loro meglio. Cominciamo con Roberto. Roberto da Messina. Prego Roberto. Dottor Giannini, buongiorno. Senta, io condivido quanto ha detto quella signora di Palermo. Io anch'io sono siciliano. Allora, gli LSU e tutte le altre strane sigle inventate per questi poveri persone che ovviamente vogliono lavorare, la qualificazione, ma vogliamo rispettare, come diceva quel giovane, anche i giovani che si sono impegnati e hanno una qualificazione? Un'ultima cosa, se lei continua a chiedere ai sindaci oppure ai rappresentanti della regione, tutti gli diranno, come l'oste, che il vino è buono. Lo deve chiedere, cosa che ha già fatto, ai cittadini, a quelli che producono e pagano le tasse. Le assunzioni, e poi la lascio, sì. Nel pre-assunzione, io personalmente e tanti altri, ho visto che questi LSU e altri facevano finta di lavorare. Per una aiuola attorno a un albero, 5 persone, e non esagero, 5, 2 scope, una che la teneva ferma e le altre 4 che chiacchieravano fra di loro. La saluto, grazie. Grazie Roberto da Messina, sentiamo Vito da Bari, prego Vito. Pronto? Sì, dica. Bene, la ringrazio di avermi chiamato. Sì, sicuro. Ecco, vorrei porre un quesito che credo sia importante per inquadrare bene il problema, e cioè vorrei che la Regione Sicilia, gli enti locali siciliani, facessero conoscere qual è la percentuale di pubblici dipendenti rispetto alla loro popolazione, così potremmo capire, per esempio, qual è l'incidenza di questi lavoratori socialmente utili, rispetto per esempio ad altre regioni, tipo la Lombardia, il Veneto o il Piemonte. Perché in quel caso, se la percentuale è parecchio parecchio alta, come temo, sì, è chiaro che sotto, negli anni trascorsi, c'è qualche cosa d'altro che non la esigenza di immettere nella pubblica amministrazione dei lavoratori per funzioni necessarie e utili, perché in quel caso avrebbero potuto fare dei concorsi pubblici, trasparenti, legittimi e dare accesso a persone meritevoli a questi lavori e non spalmare delle elargizioni. Chiarissimo. Allora guardi, intanto questa questione è ovvio che il numero di dipendenti, se uno fa il paragone del numero di dipendenti delle regioni, ecco, rispetto al Veneto che arriva a poco più di 4.000, ecco, adesso diamo la parola all'assessore Leanza. Bisogna su questo intendersi però, perché adesso viviamo in un periodo in cui tutti si diventano esperti di federalismo, di costi standard e così via. Ci sono numerose regioni al sud del nostro paese in cui la concentrazione, per così dire, di dipendenti pubblici sul totale della popolazione, problema posto al nostro contatore, è più elevata, come è più elevata in generale nell'intero andamento del contributo alla formazione del reddito pro capite, i trasferimenti pubblici rispetto al resto del paese. Se facciamo un conto consumi pro capite rispetto al valore aggiunto pro capite, nella praticamente quasi totalità delle regioni del sud i consumi pro capite superano di molti punti il valore aggiunto, il contributo al valore aggiunto pro capite. Questo dipende da un problema pluridecennale, nel senso che non bisogna pensare che siano i cittadini del sud i responsabili. Io su questo vorrei essere chiaro. C'è se nel 1951 il contributo delle regioni del sud al PIL nazionale era 24.8 punti di PIL ed è lo stesso 24.8 del 2009, e quello che è avvenuto nel frattempo è che noi abbiamo, però, ci dice lo Svimez, riversato oltre 400 miliardi di euro ai valori attuali in politiche ordinarie e straordinarie, nazionali e cofinanziate dall'Europa e sostegno allo sviluppo, che non hanno smosso quasi di niente il contributo del sud al PIL nazionale. Perché? Perché evidentemente c'è nella struttura di maggiore intermediazione pubblica del reddito delle regioni meridionali, ci sono meccanismi poco efficienti. Quindi la questione non si risolve tanto dicendo quanto siete più intensi i dipendenti pubblici rispetto al nord, perché la risposta è parecchio. Il problema è di che cosa è figlio questa cosa, cosa si può fare perché nel tempo, e senza buttare tutti per strada, perché questa è sempre una bella strada ma in Italia è impraticabile, cosa si può fare per tentare di risolvere il problema. Ecco, assessore Lanza, che lei capisce che ovviamente io le sto mandando solo delle telefonate un po' equilibrate, ce ne sono tantissime anche che direbbero ma la regione Sicilia, ma che cosa vuole? Ecco, come si può pensare poi di risolvere a un problema una volta che li si stabilizza? Cioè l'effetto di lungo periodo su una pubblica amministrazione senza concorsi, di scelte fatte dalla politica nei decenni alle nostre spalle di questo tipo, non è una generale inefficienza poi della macchina pubblica, della regione e dei comuni? Dottor Genio, lei ha posto un problema molto concreto e serio come al solito. Il problema è questo: al di là dei processi che si possono fare eccetera rispetto alla classe dirigente che ha sbagliato, abbiamo sbagliato, non lo so, ognuno poi si prende le sue dosi di responsabilità e mi auguro che poi ci siano anche qualcuno che queste colpe in qualche modo li determini. Alcuni sono luoghi comuni, il luogo comune è che la Sicilia ha molti dipendenti e le posso assicurare che la stragrande maggioranza dei comuni siciliani sono sottodimensionati a livello di pianta organica e quindi senza i cosiddetti questi precari, che non sono precari, sono lavoratori che percepiscono 20 uno stipendio di 600-700 euro e che lavorano e che tengono aperti gli uffici mantenendoli efficienti ed efficaci. Non è vero assolutamente nulla tutto il resto che abbiamo sentito. C'è la mitologia che non lavora, non so. Ci sono diversi tipologie di precari. Quelli di cui noi stiamo parlando sono quella tipologia che porta avanti, che praticamente ogni giorno fa andare avanti un comune, una pubblica amministrazione, mentre quelli che sono entrati per concorso in qualche modo li utilizzano in maniera, cioè li trattano come lavoratori di serie B. Senza questi lavoratori i comuni chiudono perché non fanno concorsi da 20 anni. E sono rispetto alle piante organiche di tantissime città del nord certamente sono molto di meno. Basti pensare, lei parlava del Veneto, 4.000 dipendenti. Al di là dei 4.000 dipendenti noi abbiamo, io sono assessore al lavoro, il Veneto, noi abbiamo praticamente tutto il personale dello Stato, che dovrebbe essere lo Stato, la competenza è mia, tutti gli ispettorati del lavoro, gli uffici provinciali del lavoro sono tutti regionali, ma sono tutti regionali e quindi debbono essere per forza di più perché siamo una regione a statuto speciale, abbiamo più competenze rispetto agli altri. Quindi al di là di queste cose che ovviamente ci sono, noi ci troviamo di fronte a un problema oggi sociale serio, 22.500 persone che si trovano in una condizione in cui qualcuno l'ha creata perfettamente. E adesso allora bisogna dare una risposta. Che pongono questioni sulla stabilizzazione di questi 30.000 quasi precari in Sicilia tra comuni e regione. Sentiamo Giuseppina da Modena. Prego Giuseppina. Sì, buongiorno. Allora, io vivo a Modena ma sono palermitana. Io sono d'accordo sulla stabilizzazione di questi precari. Occorre però che effettivamente nel momento in cui vengano messi, inseriti nel mondo del lavoro, i precari lavorino effettivamente. Diceva un suo ospite che ci sono dei comuni che si basano solo sul lavoro di queste persone. Questo ben venga, però io parlo di Palermo perché è la città dove io vado in estate. Questo non avviene perché c'è c'è una situazione, non so, di igiene ambientale, di pulizia delle strade, che è, non è assolutamente possibile. Ci sono i monumenti in uno stato proprio di abbandono totale, i musei non vengono puliti, sistemati, quindi a me va bene che queste persone lavorino e però dice, mettiamola al lavoro sul serio. Però esatto, e nel momento in cui effettivamente non fanno quello per cui sono stati chiamati a fare, si provveda in qualche modo. Grazie Giuseppina, sentiamo Antonio da Matera, prego Antonio. Buongiorno, salve a tutti. Tornando sul solco tracciato dagli altri ascoltatori, io mi chiedevo, a sentire l'assessore, a sentire il sindacalista, se non ci fossero questi precari socialmente utili, si fermerebbe tutta la macchina del Stato. Ma allora, la pianta organica prevista e quella effettiva, com'è? È vero che il politico oggi in carica deve dare risposte anche a problemi creati dai precedenti politici, però anche noi cittadini dovremmo avere dati di fatto reali, il più possibile reali, su cui ragionare, giudicare, esatto, l'operato dei politici. Mi sembra che Antonio da Matera ponga un problema, insomma, molto concreto. È lo stesso approccio che ho io tendo a fare analisi comparata e pormi anche il problema di che cosa c'è alle spalle, perché a volte problemi che derivano da disparità di meccanismi di formazione del reddito così elevata come c'entra nord e sud dopo 150 anni non si risolvono solo con colpi di spada, però è vero che bisogna partire dai numeri. Io sono d'accordo con... Sentiamo l'ultimo ascoltatore, poi torniamo con Palazzotto a fare il segretario della CGIL Funzione Pubblica un ragionamento complessivo. Ci chiama Domenico da Udine. Avete sentito che abbiamo privilegiato questa volta, soprattutto le telefonate dei nostri ascoltatori del sud, perché non ci sembrava molto giusto, ve lo dico chiaro, c'è una caterva di telefonate di SMS di nostri ascoltatori del nord che riassumo così: basta con le assunzioni meridionali. E quindi io do voce a tutti con questa sintesi un po' imperfetta e approssimativa. Abbiamo scelto una sola telefonata rispetto alle altre con Domenico da Udine. Prego Domenico. Buongiorno, io partirei da un presupposto che nella nostra Costituzione praticamente dice chi vuole lavorare nella pubblica amministrazione deve fare un concorso. Allora, da 25 anni questa gente è precaria e anche nelle altre parti d'Italia. Benissimo, volete metterli nella pubblica amministrazione? Facciamo un concorso dove loro magari avranno un punto in più di merito rispetto agli altri, perché hanno lavorato da 20 anni, si sono fatti le famiglie, il problema è quello lì, che loro hanno fatto le famiglie, hanno fatto i figli, perché io conosco amici che lavorano qui a Udine, di cui le mogli lavorano nei comuni giù in Sicilia, e praticamente questi qua vengono a trovarsi perché non possono perdere il posto di lavoro, che sono i famosi articolo 23. E poi le dico, posso fare un appello all'assessore Lanza? Sì. Ecco, assessore Lanza, voi avete in mano una Ferrari, e la fate guidare, e la state facendo guidare come una 500, con tutto il rispetto per la 500. Coraggio, chi vuole fare politica in questo paese, ci vuole coraggio, nessuno vi ha detto di fare l'assessore o il politico, bisogna prendere le decisioni. Va bene, va bene Domenico, ok, io naturalmente devo far notare che il contributo in termini di formazione di margine ai conti Fiat della 500, che pure è andata un po' meno bene di quanto dicessero eccetera eccetera, è maggiore rispetto a quello che può essere il contributo della Ferrari, quindi si tratta di farci capire. Lei voleva dire però avete una macchina molto più potente, fatela andare a giri più elevati, quindi mettendola in mano a dipendenti di qualità e qualifiche più elevate, e questo è il punto. Allora Palazzotto, ha visto che siamo riusciti a fare una puntata nella quale, insomma, deludendo chi si aspettava il luogo comune che diceva basta col sud, basta col mezzogiorno, qui la questione, al di là del fatto che ci sono più precari dopo 20 anni del totale dei dipendenti della regione Veneto, ma la questione è proprio quella della dequalificazione inevitabile a cui tutto questo porta nel tempo. Quindi per un sindacato che voglia farsi parte responsabile anche dell'efficienza e dell'efficacia con cui la macchina pubblica risponde poi ai cittadini, come si può equilibrare e contemperare la legittima presa in carico dei problemi di queste 30.000 famiglie col fatto che però poi la macchina pubblica dopo 10 anni senza concorsi, senza selezioni nelle qualifiche elevate è in condizioni inevitabilmente precarie? L'assessore di Alleanza ci dice no, però sarà inevitabilmente così. Che può pensare il sindacato di fronte? fronte a questo. È giusto tutelare chi sta peggio, però poi alla fine se l'efficienza della macchina pubblica fa schifo, i cittadini le tasse non le pagano. Ma io concordo con alcune telefonate che sono state fatte, perché la battaglia comune che stiamo facendo con i cittadini al comune di Palermo, dove non ci sono più precari al comune di Palermo perché sono stati tutti stabilizzati già da 2 anni, sono stati inseriti nelle dotazioni organiche, però il modello organizzativo del comune è inqualificabile, dico, perché c'è gente che ha un profilo professionale, fa altro, non si è compiutamente trovato come fare lavorare bene queste persone. Quindi questo è un primo problema a cui stiamo lavorando al comune di Palermo e in altri comuni dove non ci sono precari da stabilizzare, quindi al di là dei precari che abbiamo stabilizzato. Ma giustamente i cittadini ponevano un problema, che è quello, questa mole di precari ha chiuso le porte a chi è un giovane che aspira a fare un concorso. Proprio ieri leggevo un autore del giornale che i giovani disoccupati in Italia sono 1 su 3 e in Sicilia raggiungono 1 su 5. Quindi si pone un problema sociale, come affrontare un'emergenza sociale rispetto ai giovani in cerca di primo lavoro. E io credo che è stata quella emergenza sociale che allora, 20 anni fa, indusse alcuni politici, altri ne approfittarono, a dare risposte sociali in questo senso, visto che non, lo Stato non si muoveva per dare risposte. Io credo che questa stagione deve essere chiusa definitivamente, dovrebbero essere date risposte economiche al Mezzogiorno, non soltanto tagli. E su questo credo che dobbiamo chiudere in fretta questa piaga del precariato e soprattutto inserirli nelle dotazioni organiche in modo poi da poter contrattare lavori efficienti per la collettività e per i cittadini. Questo è il primo punto, io credo che sia importante. Il secondo punto che veniva fuori dalla discussione era che rispetto al nord noi abbiamo in dotazione organica o forza lavoro della pubblica amministrazione, dotazione organica più personale. Più personale. Allora io voglio, con i dati che abbiamo in possesso noi, il nostro ufficio studi, ne cito uno, un paragone, il comune di Palermo e il comune di Milano. Il comune di Palermo ha un rapporto popolazione abitanti di 1,85 con 7.450 dipendenti. Il comune di Milano ha rapporto 1:92 con 18.150 dipendenti. Quindi c'è un rapporto, intanto di più di dipendenti della dotazione organica. In più il comune di Milano spende con servizi esternalizzati cifre maggiori di quelle che spende il comune di Palermo con i servizi esternalizzati, quindi servizi che potrebbero essere fatti anche con i dipendenti in dotazione organica. Complessivamente quindi c'è situazioni che sono, non è così tutto come il comune di Palermo e il comune di Milano, c'è una situazione a macchia di leopardo sia al nord che al sud, dipende come si sono stratificate. Esatto, come sono i principi organizzativi e quanto è rimasto dentro, quanto si fa con le società partecipate, insomma questa è una questione complessa. Io sono d'accordo con Palazzotto, a volte i confronti secchi su dipendenti e intensità rispetto alla popolazione non ci dicono davvero che cosa c'è dietro. Detto tutto questo, siamo alla fine di questa trasmissione. Una vera risposta noi non l'abbiamo data oggi. E la verità è che è molto difficile dire a decine di migliaia di persone che sono lì perché la politica ce li ha messi, andate a casa. Metà di voi inizia ad andare a casa. È molto difficile questo. Il problema però è che da noi, mentre si dice ogni volta è l'ultima volta quando li si stabilizza, poi non è mai l'ultima volta. Ecco, allora la questione è, domani vedremo come va la manifestazione, però che sia l'ultima volta, su questo scetticismo è legittimo aspettarsi che poi i politici abbiano dei meccanismi diversi, per cui se non è l'ultima volta vanno a casa loro una volta per tutte. Ecco, questa è la mia conclusione. Grazie in regia a Carmelo Lauricella, grazie in redazione Alessandro Marcutullo e a Lina Genoa Radio, appuntamento a domani.